Bates Motel, La Terra Trema, Milano, Leon Caballo 23/25 November 2012. La Terra Trema è una festa, una fiera contadina, una invasione di agricoltori, contadini, produttori da tutta Italia che arrivano a Milano, a Leoncavallo. È un evento che nasce in un piccolo centro sociale occupato di provincia, nasce per dire no a un progetto infrastrutturale che era una strada, una superstrada che dovrebbe collegare Milano a Malpensa, e da lì si è creata una mobilitazione, da lì abbiamo incrociato Critical Wine, da lì abbiamo incrociato centinaia di vignaioli e agricoltori e abbiamo continuato a sviluppare una serie di sguardi, di progettualità, di raccogliere storie e di parlare di cibo, di vino, di agricoltura, tante storie che si incontrano in tre giorni ma anche durante l'anno e cercano di sviluppare delle progettualità, degli immaginari differenti rispetto a quello che è il sistema, diciamo così, come si diceva una volta, dominante e, se vogliamo dirlo, per quello che è il capitalismo finanziario. È che la Terra Trema è soprattutto, tra chi viene e chi produce, è soprattutto narrazione, perché il vino è narrazione. Narrazione di un territorio, narrazione, comunicazione tra le persone. Non so se sei d'accordo. Assolutamente, è questo. La potenza della Terra Trema penso che sia proprio questo, nel senso che sono 5, 6, 7 mila persone, speriamo quest'anno, che attraversano gli spazi del Leoncavallo e ci sono miriadi, centinaia di relazioni e di cose che nascono che noi non sappiamo. In questo momento a uno stand, tra uno stand e l'altro, magari si sta decidendo di io ti do il frumento per fare una birra, io sono un gruppo d'acquisto e voglio sviluppare una certa progettualità con i tuoi vini e con i tuoi prodotti. Dove siete? Di Alessandria, Tortona, Colli Tortonesi, tutto è Timorasso, però è un vino che era andato perso, adesso l'hanno ripescato. Autoctono? Autoctono, 2008. Fa una Barbera. Barbera. È un concorrente del Toscano. Lei di dov'è? Io di Livorno. Per me è un ritorno a casa, perché io sono di Milano e sono andata in Toscana nell'83 come scelta di vita. E oggi venire qua a presentare i miei vini dopo 30 anni che faccio la vignaiola è un ritorno a casa. Però la gente ha i gusti molto omologati e quindi è difficile che si avvicinino a qualcosa che non conosce. Cioè, non so, questa è una mia prima impressione, ecco, rimango un attimo. È vero, ho andato anch'io. Va sempre su conosciuto, su sentito, su qualcuno che gli ha detto ah guarda prova quello, ma non si avvicina con curiosità a un prodotto che non conosce. Non è perché? Perché la gente, quest'anno per la prima volta ho fatto un rosé facendo una vinificazione in bianco di un merlot ed è venuta una cosa squisita, talmente buona che non ne ho più, l'ho già venduto tutto. Qualche miseria. Poi sono vini che negli anni si sono consolidati, hanno vinto diversi premi e quindi sono molto soddisfatta di aver cambiato vita tanti anni fa. Anche l'impiegata. Perché tu vuoi milanesi vedi tutti in Toscana? Perché la Toscana è bella, perché la qualità della vita è bella, perché è meglio stare a mangiare pane e olive oppure lavorare in vigna o lavorare 10-12 ore al giorno che stare a fare l'impiegata. Io che ho fatto il contrario sono scemo. Ti sei risposto da solo. Vabbè. Interessante. Questo vino si chiama Libertario Rosso, è dedicato a due comandanti partigiani morti qualche anno fa. Erano due anarchici e da cui il nome Libertario. A parte sotto rosso perché la generazione per generazioni questa famiglia era una vecchia famiglia socialista ancora ai tempi, poi trasformatasi in parte comunista e in parte ancora socialista, diciamo antecraxi, potremmo, prima potremmo, di... ma prima molto prima, molto prima di, quando ancora va un senso la parola. Però lui che non sono io, Claudio Solito, che è il responsabile della vigna, io sono un membro di un gruppo d'acquisto solidale che ha conosciuto qui a Leoncavallo questa azienda, gli sono piaciuti i vini e noi acquistiamo i vini da lui attraverso il sistema dei gruppi d'acquisto solidale. Però voglio tornare di nuovo a questo nome. Lui gli ha dato questo nome perché ha partecipato ai funerali di questi due comandanti partigiani e si è accorto che c'era ben poche persone dietro al feretro di questi due. Forse lui si è chiesto perché erano anarchici, forse perché l'anarchia in Italia è un po' vissuta in piccolo, per cui lui ha scelto come atto di dedicargli il nome di un vino e ha dedicato questo bracchetto a loro due. Che non è male. Grazie. Io sono Paolo Gigli dell'azienda agricola Sant'Agnese di Piombino. La nostra è una piccola azienda del promontorio tra Baratti, molto vicino al Golfo di Baratti, e produciamo dei vini molto legati alla tradizione ormai del nostro territorio. Vini bianchi con del vermentino, rosato e fatto in maniera un po' particolare con uve di Merlot, e poi con questi ci siamo specializzati su fare dei vini monovarietali, dove praticamente abbiamo Merlot in purezza, Cabernet in purezza e Sangiovese in purezza. E questa cosa qui ci permette di caratterizzare molto la nostra azienda, facendo in maniera tale che ci sia una caratteristica molto ben delineata dei vini legati al territorio, e in qualche maniera ci hanno dato dei buoni risultati per quello che è stata la visibilità che abbiamo avuto in questi anni. La prima volta che vieni qua? No, anche l'anno scorso anno ero venuto, e è stata una manifestazione molto carina dove ci sono produttori molto interessanti, molto piccoli. Il fatto è che comunque sia l'agricoltura della zona del sud della provincia di Livorno è sempre stata uno dei baluardi dell'economia. C'è sempre stata l'industria siderurgica e aveva assorbito in qualche maniera gran parte dei lavoratori, però in realtà molti giovani hanno capito quello che era l'importanza del territorio e si sono dedicati con nuova passione a questo lavoro, in qualche modo rinunciando a quello che poteva essere il posto fisso. Che tanto non c'è più alle acciaierie, ecco. Azienda? Azienda Sorelle Palazzi di Terricciola. E te non sei di Terricciola? No, non sono di Terricciola, assolutamente no. Terricciolese ormai oltre 40 anni è la mia prozia Paola, da cui appunto quando ero diciamo un ragazzino mi ha avvicinato al mondo del vino, ecco, prima invitandomi a fare le vendemmie, poi facendo lavori di cantina, insomma è stato il mio avvicinamento a questo tipo di mondo. E oggi insieme a lei mi occupo di portare avanti l'azienda, che è una piccola realtà del territorio appunto delle colline pisane. Altre cose, niente, qua questa manifestazione che personalmente siamo molto affezionati, perché ci siamo dal primo anno, fin dal primo anno appunto in cui Luigi Veronelli fece l'invito alle prime aziende. Bravo, nessuno lo nomina più, però è stato lui, e bisogna ricordare che è stato lui a dare via questa serie di iniziative. Che non era un personaggio da poco, infatti. E io ripeto, la adoro molto, perché si trovano appunto aziende di vignaioli, aziende che sanno raccontare i propri vini. La narrazione, questo che esatto, è interessante. Qui è veramente molto presente la narrazione, e anche l'atmosfera, il contesto in cui ci troviamo aiuta molto, ecco, a creare quindi una sinergia anche tra chi viene ad assaggiare e gli espositori. Quindi posso confermare insomma che con gli anni, specialmente con i vignaioli più disponibili come te, insomma, ci si diverte anche a raccontarsela, anche se loro sono di Pisa, ma insomma vabbè, no, di Pisa si fa per dire, è tutto perché di Pisa. Io non sono pisano. Non sei autoctono? No, non sono autoctono. Sì, cosa producete? Allora, noi produciamo principalmente Chianti come prodotto, quindi abbiamo un Chianti delle colline pisane, un Chianti superiore che è una selezione di uve sangiovese che fa affinamento in botte grande, e la riserva invece che fa affinamento in botti piccole, quindi il prodotto prodotto, diciamo, un po' più da, da affinamento e da lunga conservazione. Oltre al Vin Santo, ecco, appunto, stavo per dire che l'ha assaggiato ora per la prima volta e mi piace parecchio. Sì, il Vin Santo è uno sui prodotti, devo dire, su cui mia zia ha proprio lavorato tanto in termini di passione e di impegno, e oggi rappresenta, ecco, sono contento perché dopo tanti anni ci sono altre aziende del nostro territorio che si stanno rimettendo a fare Vin Santi, proprio seguendo un po' l'esempio di mia zia. Te lo dico, da Toscana è sempre più difficile trovare uno buono. Però stiamo tornando indietro. Io, guarda, ti posso adesso, senza andare, ma ci sono due o tre piccole aziende vicino a noi che stanno facendo dei Vin Santi ottimi. Quindi tu, il vostro mi ha lasciato un sapore in bocca. Allora, noi siamo Terra d'Arco Iris di Chianciano Terme e parliamo di un vino che è sia in bottiglia che in bag in box, ma è un 2009, cioè un vino che ha già 3 anni, con 13 gradi e 50, 90% sangiovese, e che nella zona di Viareggio, dove è stato adottato come vino sfuso in un negozio di giovane apertura, va alla quantità di 60 litri settimanali. Questo vuol dire che è un vino molto apprezzato, e secondo noi il vino sfuso forse è il vino del futuro, perché bisogna abituarsi alle cose anche più semplici ma genuine. Sempre apprezzato, perché sono livornese e usa tanto. Ecco, ma non solo, questo non è un vinello giovane appena fatto dell'anno, è un gran vino maturato in barrique 18 mesi, in botte di rovere grande 18 mesi. È roba seria, ma per quale motivo bisogna per forza utilizzare bottiglie, tappi di sughero, etichette, quando si può avere un gran bel vino, risparmiare su tutto la filiera? Noi pensiamo che i buoni vini possano benissimo raggiungere il consumatore anche sfusi. No, è curioso quello che ha detto, perché io, che sto a Milano da 10 anni, mi lamento di una cosa terribile: qui vino sfuso è sinonimo di mazzate al portafoglio. Forse la mazzata al portafoglio vuol dire qualità, io non so che cosa vuol dire, ma sicuramente se è un vino che ha minimo 3 anni, vuol dire uno, che è un gran vino se è venduto sfuso, due, che ci vuole un ammortamento per tenere in cantina un vino per 3 anni. Quindi non... Il vostro quanto costa? Questa bag in box da 5 litri viene 18 euro, cioè 14 virgola qualcosa, prezzo più popolare, IVA. Un prezzo popolare? Io penso di sì, è 3 euro e rotti al litro. Sì, assolutamente sì. Beh, ed è un gran bel vino. Quando parlavo di mazza del portafoglio parlavo di altri livelli. Beh, c'è chi per vino sfuso intende 1,50 euro al litro. Sì. Io mi chiedo sempre come sia possibile. Con il prezzo del gasolio di ora, anche solo per trasferirlo. Io di solito, personalmente, sotto i 3 euro non compro nulla. Beh, fa molto bene. Non fa vorrei, molto bene. Vorrei arrivare, insomma, campare al mio pranzo alla Piacenza. Questi sono tutti vini bio, Stiamo parlando quindi di solfiti tra quasi niente, minimi. Cosa mi fa assaggiare? Tutto quello che vuole, anche una verticale. Anche? Una verticale, dal minimo al massimo. Sei vini. No, sei vini muoio. Allora, l'azienda è biologica dal 95, dal 2000 è biodinamica, e nei vigneti compost sovescio, mentre nella cantina fermentazioni spontanee, non usiamo tannini, niente enzimi, e niente tannini, niente acidificanti, quindi solo un po' di solfiti. E su questo vino qui, che è il Sangiovese, Notte Lunga, anno 2010, addirittura nei vigneti non usiamo né rame né zolfo. Rame e zolfo che sono in metà, cioè che sono quello che in agricoltura biologica è concesso per la lotta contro i funghi, per uno sproidio, corroboranti, ossia delle miscele di alghe che impediscono l'arrivo delle spore, dei funghi, e quindi vini completamente naturali. Questo Sangiovese qui ha fatto fermentazione in legno, poi ha fatto affinamento in botti più piccole, ma sempre da 2000 litri, quindi non tonneau, non barrique, e è in bottiglia da 4-5 mesi e adesso starà in bottiglia sicuramente. È da poche bottiglia, sì, però consiglio a tutti di aspettare almeno un anno o due prima di essere come diventa, già migliora. Migliora sicuramente, anche perché c'ha i tannini del legno, le botti erano nuove, forse un po' troppe, però aiuteranno a addolcire e ammorbidire il vino. Dove siete? Dillo, che io lo Castiglion vedo. Fiorentino, provincia d'Arezzo, tra Arezzo e Cortona. E dopo una faticosa serie di assaggi, cucina popolare del Leo, zuppa di cavolo nero, sentiamo com'è. Parecchio buona. Buon appetito. Once there was a day, we were together all the way, an endless path unbroken. But now there is a time, a torture less sublime, our souls are locked and frozen. Is broken. Bates Motel, La Terra Trem, Milano, Leoncavallo 23/25 November 2012. La cucina del Leoncavallo sono ormai 6-7 anni che fornisce migliaia di pasti per le persone di Milano usando i prodotti degli agricoltori che attraversano la Terra Trema. Questo per noi ha un valore immenso e vogliamo ricordare un nome, qualcuno che c'era dietro questa idea, ha detto Critical Wine, una persona, l'ha detto uno solo per ora. No, certo, Veronelli, Luigi Veronelli, penso che abbia avuto la sua grandezza sta anche in questo, aver avuto un'intuizione del genere di venire nei centri sociali per parlare di vino e parlare di agricoltura. Non penso che siano in tante, cioè è stato veramente geniale, insomma, a capire che questi spazi che per natura sono metropolitani ci ha portato l'agricoltura. Volevo che fosse ricordato, mi sembra giusto ricordare Luigi Gino Veronelli, che te sei giovane, ma insomma per me è stato sin dagli anni 70 un mito. Assolutamente, noi l'abbiamo conosciuto, devo dire che noi la nostra storia era quella appunto di militanti, di frequentatori, di animatori di spazi sociali occupati, non sapevamo, cioè pur avendo magari di famiglia l'azienda agricola, un nonno, un parente che fa l'agricoltore, perché veniamo da un territorio particolare, però non conosciamo il Folletto 25603 ad Abbiate Grasso e niente, quindi per noi è stato chiaro un incontro che ci ha segnato la vita. 10 anni fa sapevamo poco o nulla di vino, oggi possiamo dire di saperne, di avere molto da imparare, ma anche ormai molto da insegnare nel mondo del vino e nel mondo dell'agricoltura. Che non è male. Lui è bravissimo, lui è enorme. Io sono incompetente. Questo è un Glera e questo è un VCC. Sono di due Calvec, quindi sono entrambi abbastanza dolci. Oddio, vogliamo un super poco minerale, un po' più saporito rispetto all'altro. Se volete poi uccidere anche quello. E poi uccido lui perché mi ha registrato. Passato, allora, questo è un passato fatto col Montepulciano d'Abruzzo. E praticamente lo facciamo facendo pressare le pressiamo le uve direttamente nella pressa a membrana, quindi non c'è la diraspatura e così esce abbastanza morbido e fa anche poca feccia, quindi esce molto profumato e insomma è un buon rosato. L'azienda ha 3 ettari, tutto in biologico non certificato, e da quest'anno, dall'ultima vendemmia, facciamo anche i vini con i lieviti autoctoni, quindi fermentazione spontanea. Essendo piccoli ce lo possiamo permettere. Dove siete? Siamo in provincia di Teramo, a Controguerra. Controguerra? Sì. Anche un bianco me lo fa essere bianco. Vivo come vino. Sì, un po' più freddo sarebbe meglio, però l'ho comprato, l'ho preso a casa perché è nel frigo. Sì. Rosso. Allora, questo è un Montepulciano d'Abruzzo del 2010, e ha fatto un anno di barrique però non nuove, quindi al quinto, sesto passaggio. E noi abbiamo solo 2 ettari di vigna rossa, facciamo una produzione abbastanza bassa da 40 quintali per ettaro. Niente, di queste bottiglie faremo tipo 6.000 bottiglie di rossa più o meno. Allora, sono Andrighetti Nicola dell'azienda agricola Andrighetti Luigi Angelo Nicola. Siamo produttori del Marone, ripasso da Bruxelles, e cerchiamo comunque di rimanere nell'identità tipica della zona, quindi di mantenere. Quanto siete lì? Noi siamo lì dal 1818 come famiglia, come produttori, essendo anche sia lavoratori della terra che vinificatori, da quel periodo lì, diciamo, che le carte ricordino. Quindi anche un agriturismo che ci possa far sì che il cliente possa venire e allo stesso tempo deve essere tranquillo nel momento che abbia bevuto un bicchiere, tra virgolette, in più. Il prodotto loro, insomma, è assolutamente fantastico, lo dice ormai un appassionato. Ti ringrazio del... Di due parole su uno dei signori dei rossi. I signori... Quello che c'hai lì. Quello del Lamarone. Lamarone. Lamarone penso che sia l'identità della Valpolicella, dove ogni produttore cerca di impegnarsi a produrlo meglio possibile, nella sua tipicità di ogni zona dove si trova. Ci avete ancora le cassette del nonno? Le cassette quelle per, quelle, sì, per l'abbassimento? Sì. Purtroppo no. Porca miseria, dovresti vedere tuo babbo, mi ricordo. Me le dovevamo tenere, però si cercherà magari in altri cascinali. L'azienda si chiama Tenuta Patruno Perniola, è a Gioia del Colle, in provincia di Bari, tra Bari e Taranto. E l'azienda è a 350 metri sul livello del mare e vinifichiamo, è un'azienda agricola che è composta da seminativi, come terreni, sono tutti di proprietà, ci sono dei seminativi, un ettaro e mezzo di uliveto e 2,7 ettari circa di vigneto, tutto primitivo di Gioia del Colle. Le tre tipologie noi lavoriamo con sulla qualità piuttosto che sulla quantità e produciamo neanche 10.000 bottiglie all'anno, quindi una resa per ettaro molto bassa, molto più bassa di quello che è la prescrizione della DOC. Esatto, crescenza sola. E questo che mi ha fatto assaggiare? Questo che le ho fatto appena degustare è un primitivo di Gioia del Colle, il cui nome è Marzagaglia, prende il nome dal nome della contrada dove è sita la masseria e i terreni, è un primitivo in purezza che viene affinato un anno, questo dicevamo si chiama Chirintana, è un dolce naturale per appassimento sulla pianta, viene vendemmiato a distanza di circa un mese dalla prima vendemmia, quindi la prima vendemmia si vendemmia a Gioia del Colle a metà settembre, la seconda vendemmia è a metà ottobre circa, e è un vino che ha fa del suo punto di forza la freschezza e la dolcezza naturale che consegue al fatto che sia appassito naturalmente sulla pianta. Quindi abbiamo seconda vendemmia, seconda vinificazione e una quantità di bottiglie veramente ridicola, siamo ampiamente al di sotto delle 1.000 bottiglie. Avrei avuto la possibilità di partecipare ad altre fiere, ho preferito questa, ci ho pensato più di un anno, sarei voluto venire qui già l'anno scorso. Soddisfatto della scelta? Assolutamente soddisfatto della scelta, per una serie di ragioni, perché la gran parte o la totalità dei produttori ha delle idee affini alle mie, cioè noi lavoriamo rispettando il territorio, lavoriamo rispettando l'ambiente, i miei vigneti e tutta l'azienda è un'azienda che lavora in biologico. Beh, siamo nella zona di Riparbella, cosa posso dire? Facciamo il sale al vino, quindi il sale è fatto con il Sangiovese, il sale viene col vecchio sale delle saline di Volterra, quindi usiamo quello, quindi tutto autoctono. In più facciamo uno spumante molto raro in Toscana con... infatti mi va colpito esatto, con vermentino, con una spumantizzazione in bottiglia, quindi con un metodo classico, sono tutti vini naturali. In più adesso abbiamo messo del pinot nero che non è ancora presente per fare spumante, dei rossi abbiamo Sangiovese e Syrah. Sangiovese l'abbiamo normale in acciaio, poi in barrique per 3 mesi, giusto per arrotondare un attimo i gusti. Molto pesante la barrique per i miei gusti, cioè deve rimanere il sapore del terroir, cioè della terra. E l'olio è l'olio nostro delle zone, e vabbè, quello è inutile che te lo racconti perché... Che lo venga a prendere apposta. Sto a Milano da 10 anni, ma veramente sei a Milano? Ma senza l'olio toscano non vivo. Da Livorno è lì, lo sai dove è Riparbella? Sì. Basta trovarci volentieri, non ci sono volentieri. Allora io credo che questo significa un passaggio, le cantine appartengono ai produttori, i vini a volte a chi li descrive o a chi li fa. abbiamo il nostro amico Corrado della Distesa che dice il vino senza l'enologo. Beh, anche noi lavoriamo senza l'enologo, nel senso che il nostro enologo è semplicemente un gabinetto di analisi che sta in Francia, quindi non ce l'abbiamo in cantina, così non ci dà la ricetta, come il medico. Sì, io credo che in realtà vedo molto il nostro ruolo di vignaioli, di chiunque provi a coltivare o fare qualcosa in un rapporto diretto con la terra, come un ruolo di testimonianza, quasi, di interpretazione di una condizione cui noi dobbiamo portare il massimo rispetto. Noi siamo in un luogo specifico, sono luoghi molto diversi. Masserano, in provincia di Biella. Siamo a Masserano, che è nell'Alto Piemonte, ai piedi delle montagne, in direzione del Lago Maggiore. È molto diverso da Chianciano e credo assomigli di più alla zona del Prosecco, ma ogni luogo ha fortissima una specificità e tutti noi dovremmo sentire una grande appartenenza al luogo che più ci è vicino per riuscire ad appartenere fortemente al pianeta e rispettarlo al massimo. E secondo me, in quanto vignaiolo, in quanto coltivatore, anche chi fa un orto, come diceva la signora qui, in realtà è semplicemente in un luogo e in un tempo specifico e dovremmo abbassare di molto il nostro orgoglio personale, renderci conto che possiamo fare pochissimo, tutti gli interventi che facciamo tendono verso il disequilibrio. Vai, però. Tu ti posso spiegare che abbiamo una gamma di rossi di una certa struttura che Basso Piemonte, Langa, se focalizzi, miglior vino del Piemonte. Si dice di sì. No, vabbè, senza nulla togliere all'astigiano, Alessandrini, però noi ci difendiamo bene. Quindi noi vogliamo fare dei vini che assomigliano un po' ai figli, talmente dei Baroli, perché adesso parliamo di Dolcetto, Nebbiolo, Barbera, d'accordo. Il Barolo è uno dei signori dei rossi. Ma il Barolo è quello che dà la soddisfazione enorme. Sai perché? Perché noi abbiamo dei vini che quando escono in bottiglia lo presenti quell'anno. Buono, bene. Ma questi, man mano che crescono, man mano diventano buoni, ti danno l'orgoglio, li fai, li strutturi, li vedi venire su, detto tutto. Quando tu arrivi a assaggiare un 2004 Brico Luciani, ecco, l'estasi, dici, l'ho creato bene, sì. È per forza. Sì. Quando ti ho detto questo... Senti un po'? Stavo sentendo, peccato il radio, l'odore. Non si può. Però puoi raccontare con la voce. Non so se lo posso montare, però sta minchia. In un anno che dovrebbe finire il mondo si può anche dire quello. Un po' come un mese finisce il mondo. E chi se ne frega? Però noi abbiamo bevuto bene. Appunto, lo aspetteremo. Assolutamente, con bel Barolo. Cosa vuoi di più dalla vita? Niente. Un Chianti, un Barolo. Una Marone. Ci mettiamo ancora. No, vabbè, adesso già questi. Ci mettiamo, allora, per finire il mondo, ci mettiamo un Chianti, un Barolo, poi ci mettiamo qualcosa da Marone. Io ci metterei un Borgogna anche, scusate. Sì, cazzo! Soir, l'âme du vin chantait dans les bouteilles. Homme vers toi, je pousse aux chairs déshéritées, sous ma prison de verre et mes cires vermeilles. Un champ plein de lumière et de fraternité. Je sais combien il faut sur la colline en flamme de peine, de sueur et de soleil cuisant pour engendrer ma vie et pour me donner l'âme. mais je ne serai point ingrat ni malfaisant, car j'éprouve une joie immense quand je tombe dans le gosier d'un homme usé par ses travaux. Et sa chaude poitrine est une douce tombe. Je me plais bien mieux que dans mes froids caveaux. Entends-tu retentir les refrains des dimanches et l'espoir qui gazouille en mon sein palpitant? Les coudes sur la table et retroussant tes manches, tu me glorifieras et tu seras content. Oh, oh, oh, oh. J'allumerai les yeux de ta femme ravie, à ton fils je rendrai sa force et ses couleurs, il serait pour ce frêle athlète de la vie l'huile qui raffermit les muscles des lutteurs. En toi je tomberai végétal en proisie, grain précieux jeté par l'éternel semeur, pour que de notre amour naisse la poésie. Il jaillira vers Dieu comme une rare fleur. Soir, l'âme du vin chantait dans les bouteilles.